alghe marine danzano le ondine ogni or. Tizze ardille sbucciano le anguille e le razze da scintille. Il salmone va con l'ottorione a far colazione al bar. E la triglia cerca una conchiglia con alloggio da guitar. In fondo al mar vi sono degli antri blu, dove non giungo gli echi lassù, dove alla notte quando intorno è tutto su, delle meduse brilla il diaparo a maggior, in fondo al mar è un regno di mister, è una città di sogno e di piacere, vi sono coralli per le sabbie d'or, in fondo al mar vi sono mille d'or. Il bianchetto col calamaretto se ne vanno a letto insieme, saltellante in salsa piccante, palanciuga dall'amante, la ragotta che ha la crosta tosta, alle ferme in posta ma, e in bottega resta il pesce sega, a segare il baccarà. In fondo al mare vi sono degli anzi blu, dove non giungono gli echi di lassù, dove alla notte quando intorno è tutto scur, delle meduse brilla il diafano a maggior, in fondo al mar è un regno di mistero.